Capito che era andato un po' troppo lontano, Pace Imbornone mormoriò qualche cosa che poteva magari parere una domanda di scusa, mentre Don Agostino Fiandaga si affannava a calmare il marchese. «Ancora non capisco», fece Le Monnier, che non si era impressionato per la scena. «Va bene la politica e tutto il resto, ma mettere insieme tutti i suoi soldi il Barbabianca, come avrà fatto? Rubando!» E questa volta fu il coro, la concordia assoluta. Per la prima volta, dopo 7 anni che teneva le persiane serrate al lutto scetto, Tommasino Buonocore fece entrare da una fessura della finestra una lama di luce che tagliò a metà lo scagno pieno da polvere. Nessuno era morto recentemente in quella casa, certo, ma la spina che 7 anni avanti gli avevano inchiodato al cuore, quella sì, che era stata lutto grande, che gli aveva levato il gusto di campare, curvo, con lo sciallino sulle spalle pure se ancora faceva caldo, Tommasino considerò lo scagno che pareva spaccato tra ombra e luce, il tagliacarta arrugginito, l'asciugatoio rovesciato che aveva confuso la sabbia che c'era dentro con la polvere densa sul piano del tavolino, che uno ci poteva scrivere sopra col dito. Non c'era più voluto entrare da allora in quella stanza. Ma oggi forse era la giornata speciale mandata da Dio. A passi cauti, come se camminasse sul ghiaccio e avesse ogni momento spavento del rompersi l'osso del collo, si avvicinò allo scagno. Sedette sulla poltrona di Vimini, aprì il primo cassetto a destra e ne tirò fuori la copia di una lettera che già qua e là cominciava a macchiarsi di giallo.